Guardate, queste frasi del Vangelo che leggevamo in questi giorni di Natale, no? In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Sono frasi che nel Vangelo di San Luca hanno il significato di collocare storicamente la nascita di Gesù, e di fatto il Vangelo di San Luca, così come anche gli Atti degli Apostoli, è un libro dalla notevole precisione storica. Però a noi dicono anche una cosa più che ci può interessare per la nostra vita cristiana, per la nostra identificazione con Gesù, che è il nostro Salvatore, che è il Figlio di Dio, nel venire tra noi, nel diventare uno di noi, è una cosa che noi sappiamo, che diamo per scontato, ma invece ci possiamo riflettere un po'. È entrato dentro la storia e l'ha accettata così com'era, e così com'era in quel tempo. E poi da adulto ha cercato di fare quello che voleva fare, quello che era la sua missione da parte di Dio Padre, e quindi di influire sulla storia per cambiarla, anche se il suo cambiamento, il cambiamento che porta Gesù, è un cambiamento molto profondo, che poi dipende da ciascuno di noi portare alla pratica. Però se noi pensassimo in teoria appunto un Dio che entra nella sua creazione, no? Che si fa creatura, potremmo pensare a qualcosa di diverso. Invece in Gesù c'è proprio l'accettazione completa delle leggi della storia, possiamo dire così, del tempo. Così come Gesù, tu hai voluto, ecco, al di là del concepimento del tutto nuovo e per opera di Dio, però al di là di quello che è una caratteristica esclusivamente tua, per tutto il resto, ecco, portare avanti la tua nascita, la tua crescita nel seno di Maria durante quei 9 mesi, e poi così anche la tua crescita dopo è stata secondo le leggi della natura, le leggi che regolano la crescita di ciascuno di noi. E hai rispettato il tempo, non l'hai saltato, addirittura hai passato 30 anni, 30 anni prima di manifestarti al mondo, possiamo dire così, no? 30 anni di vita normale come la nostra, come quella di uno qualunque dei tuoi concittadini. Quindi hai fatto tutte le tappe della crescita, tutte le tappe dell'educazione. Possiamo anche dire così. Hai avuto pazienza, la pazienza di Dio, di cui qualche volta o spesso si sente parlare. Il Papa ne parlava a Natale, no? Nella messa della notte di Natale. Alle volte si sente parlare della pazienza di Dio nei confronti nostri, nei confronti dell'umanità. Ecco, ci perdona sempre, ci attende sempre, è paziente, no, con noi, ma anche con se stesso è stato paziente il Signore, non ha avuto l'impazienza di manifestarsi al mondo. Quando aveva 12 anni si nota qualcosa di questo desiderio, di questa impazienza, che diventa per Gesù il modo di vivere quella che per ciascuno di noi è l'epoca dell'adolescenza, quindi un momento di presa di coscienza della propria autonomia anche dai genitori, e nel mistero del Dio fatto uomo, quell'episodio dei 12 anni si vede in un certo senso l'impazienza di Gesù di dedicarsi alla missione che il Padre gli aveva affidato. Ma non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Però subito dopo ritorna, rientra e sta sottomesso alla Madonna e a San Giuseppe, a Maria e a Giuseppe, e quindi aspetta la sua ora, il tempo fissato. E tu Gesù entri nella nostra storia e anche la prendi così com'è allora, con le sue, diciamo, difficoltà, no? E nasci proprio dentro a un censimento e poi accade qualcosa che nella storia degli uomini accade sempre, no? Anche ogni giorno ci sono notizie di drammi, di tragedie, anche a volte di incidenti, altre volte di... quindi causate forse, ecco, non sempre dalla volontà, dal peccato dell'uomo, altre volte invece proprio così, guerre, inimicizie, insomma. E Gesù le prende dentro, quelle del suo tempo, quelle di quell'epoca, quelle di quella storia, no? E i magi sono appena partiti, racconta San Matteo, del suo Vangelo, essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ha chiamato mio figlio. E poi accade la strage degli innocenti, quella che si ricorderebbe oggi, no? Se non fosse domenica, il 28 dicembre, sono i santi innocenti. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Quindi tu Gesù nel prendere con te quel tempo in cui hai pensato di venire al mondo, no? Ecco, nella pienezza dei tempi, prendi di quell'epoca fin dall'inizio, dall'infanzia, degli episodi, alcuni diciamo in un certo senso indifferenti, come il censimento. Che però portano con sé delle difficoltà personali, familiari, per Maria e Giuseppe, dover partorire in un luogo sconosciuto e non avendo ospitalità, e altri molto più grandi, tipo questa invidia di Rode, questa gelosia folle che fa parte del suo personaggio, no? Lui racconta agli storici che proprio uccideva anche i parenti, no? Se temeva che gli facessero ombra, quindi è ossessionato dalla possibilità di perdere il potere, e quindi questo bimbo di cui si parla, questi magi che parlano del Salvatore che è nato, del nuovo re dei Giudei, lo porta a reagire così, no? E anche con l'uccisione di tutti i bambini da 2 anni in giù, in quella zona. E noi potremmo chiederci: ma come è possibile, Signore, che la tua nascita, che deve portare pace, appunto, come dicono gli angeli, che deve portare salvezza, che deve portare gioia a tutto il popolo, porti con sé come conseguenza, non diretta, indiretta, no? Cioè tu permetti che porti con sé anche questo dolore così grande. E a volte anche lungo la vita ci troviamo, no? A volte noi personalmente, altre volte alle persone care o anche a persone solo conosciute o anche agli sconosciuti, perché le notizie oggi sono molto a portata di mano, quindi ci arrivano notizie di ogni tipo, no? da tutto il mondo, e quindi ci rendiamo conto del dolore che c'è nel mondo, no? E allora io penso che questo episodio della vita di Gesù, che ha portato alla morte di innocenti, che poi noi nella Chiesa addirittura celebriamo come santi, come martiri inconsapevoli di Gesù, persone, bambini che hanno testimoniato con il sangue in qualche modo la verità della nascita come uomo del Figlio di Dio, e lo hanno difeso perché hanno dato la vita per lui, possiamo dire così, sono morti loro al posto suo. Quindi in qualche modo nella Chiesa, quando noi celebriamo la messa dei Santi Innocenti, pensiamo che ecco, al di là della tragedia della morte, anche della morte violenta, dell'odio che provoca un dolore inconsolabile, come dice la Sacra Scrittura, Rachele che non vuole essere consolata, eppure ci ricorda che c'è una speranza più grande, che c'è un significato che va al di là del nostro dolore e che ha a che vedere, e che può avere a che vedere, possiamo collegarlo, con l'opera della salvezza. Alla fine poi della vita di Gesù noi ci ricordiamo sempre che il suo morire sulla croce, che in qualche misura è già presente nella sua nascita perché è stato previsto dai profeti, perché è conosciuto da Dio, perché è intravisto dalla Madonna. Questa mattina leggevamo quella spada di 7 tagli, no, che il profeta Simone profetizza a Maria quando lo vanno a presentare al Tempio. Quindi questa dimensione di sofferenza legata alla salvezza, di questo dolore attraverso cui il quale si manifesta l'amore totale del Signore per noi e anche il nostro unirci a Lui, questo ci può dare una speranza nei confronti di queste situazioni difficili o anche incomprensibili. Queste sono grandi tragedie, quelle che leggiamo nella Scrittura, quelle che accadono a volte, no? Accadono nella nostra vita o nella vita degli uomini. Possiamo applicarle anche a situazioni di difficoltà minore, ma noi chiediamo a Gesù Bambino, alla Madonna e a San Giuseppe, che grazie alla loro esperienza ci aiutino a tenere sempre viva questa speranza, la speranza da comunicare ad altri, anche qualche volta è molto difficile, no? Quando ci sono situazioni molto dure è molto difficile, forse la comunichiamo solo stando vicini, magari proprio tacendo, no? Piangendo insieme, come fa Gesù con Maria di Betania, no? Quando c'è suo fratello morto che piange con lei, no? non le dice nulla per spiegare quel dolore, ma piange con lei addirittura, pur sapendo nella sua previdenza, preveggenza divina, che era chiarissimo che lui avrebbe realizzato che suo padre gli dava ascolto, che Lazzaro sarebbe risorto. Questa malattia non è per la morte, diceva ai suoi discepoli, quindi lui lo sa, e a Marta aveva detto: credi tu che io posso fare questo. Però con Maria piange e basta, perché sa che in quel momento non c'è bisogno di altro, e anche ci fa capire che il suo cuore è molto sensibile, che soffre con noi quando la vita umana si colora di sofferenza. Per cui possiamo dire che Gesù ha preso, ecco, tutta la nostra vita così com'è, no? Con i suoi tempi, con le sue sofferenze, con le vicende della storia che, attraverso le quali lui si districa con l'aiuto degli angeli per riuscire a sopravvivere e a portare avanti la sua missione. Ecco, questo anche questo, torniamo sul rapporto di Gesù con il tempo, no? Perché noi a volte appunto il tempo sì, ci mette in difficoltà, no? Perché a volte perché pensiamo che sia che ci manchi, oppure perché è troppo lungo e mette a repentaglio la nostra pazienza. E a volte, quando si tratta di portare avanti a lungo una situazione di fatica o di difficoltà, ecco, i manuali classici parlavano della pazienza, e anche che è una parte della virtù della fortezza, e anche della virtù della longanimità, che significa proprio questa capacità di portare avanti a lungo una situazione di prova. E Gesù si vede che ha una perfetta cognizione del tempo, del suo tempo, no? Dice, ecco, comincia quando è giunto il suo tempo. Addirittura quando la Madonna gli dice, gli chiede di fare un segno a Cana, dice, non è ancora giunta la mia ora. Però poi cambia programmi, poi fa quel segno a Cana che poi risulta così importante. E quando è vicino alla sua ora, all'ora della croce, lo dice, è giunta la mia ora e che cosa devo dire, no? Se non eccomi. E pensate che anche la stessa morte di croce, la morte violenta di Gesù, noi la possiamo intendere come un limite del tempo che il Signore stesso si è dato, no? Per poter portare a compimento la nostra salvezza. Cioè, anche questo è sconvolgente per me. Se pensate che ha fatto tutto in una vita che, certo, allora forse poteva essere anche abbastanza lunga, ma neanche tanto. Dicono gli storici, calcolano più che sui 33, sui 37 anni, e poi comunque gli anni della vita pubblica sono 3 o poco più. Quindi quelli in cui agisce, in cui si manifesta, sono pochi, sono 3 anni, sono sono 1200 rotti giorni, cioè è un tempo veramente limitato, anche se poi il buon evangelista Giovanni alla fine del suo Vangelo dice ha fatto tante di quelle cose che non basterebbero le biblioteche intere del mondo, no? E in realtà è un iperbole, ma per dire che comunque quei giorni sono stati così intensi, no? E così densi, però sono stati pochi, quindi in qualche modo quella croce di Gesù dice anche un limite del tempo, non ho più tempo, no? Non ho più tempo di fare il bene, Gesù si è messo anche questo limite, d'accordo con il Padre, con lo Spirito Santo. E quindi il tempo che tu, Gesù, hai trascorso con noi su questa terra, nella nostra storia, è un tempo che ha un inizio e una fine, che è limitato, eppure è stato sufficiente per mettere in atto la nostra salvezza. Pensate che un po'. Tu, Signore, avresti potuto fare un sacco di cose di più, no? In più, avresti potuto andare in molti più posti del mondo, invece ti sei limitato a quella che noi adesso chiamiamo la Terra Santa, giusto? Sei andato un po' più in là, quella che anche adesso i libanesi considerano terra santa, no? Tiro, Sidone, perché Gesù è stato lì e ecco, no? E appunto poi mi faceva sorridere anni fa sapere da un inglese che studiava con me a Roma che c'è una leggenda lì in Inghilterra che dice che nei 30 anni di vita nascosta Gesù ha fatto un viaggio in Inghilterra, no? Sarebbe andato con la sua barca. Noi pensiamo che non sia così, anche se non sappiamo nulla di quei 30 anni, no? Il sogno di tutti è poter avere Gesù che calpesta la propria terra, che quindi diventa terra santa, cioè terra vissuta dal figlio di Dio, no? Però questo Gesù probabilmente non l'ha fatto, ha vissuto nel luogo che gli era dato allora per il suo lavoro, il che significa che tu Gesù hai, nel farti uomo, hai voluto vivere anche il limite che caratterizza la nostra vita in tanti modi, no? E se stiamo qui non stiamo lì, e anche tu Gesù non hai voluto avere quello che a volte si dice, e lo crediamo, insomma, perché abbiamo delle prove, che tu doni ai santi il dono dell'ubiquità, il dono di stare in due posti diversi. Invece Gesù non ha fatto questo, no? Nel Vangelo non si legge nulla di tutto questo. Se stava in un posto non stava in un altro. Infatti dice a Pietro, che dice tutti ci cercano, beh, andiamo altrove perché sono venuto anche per quello. Quindi hai voluto avere proprio una vita pur nella pienezza della tua divinità e come umanità normale come la nostra. Quindi il limite dello spazio, il limite del tempo, il limite anche della cultura di quel tempo, no? Anche dei mezzi tecnici di quel tempo. Non aveva l'auto per spostarsi più velocemente, no? Non aveva computer e cellulari per comunicare più rapidamente. E il limite di quella storia, il limite del tempo, il limite dello spazio. E possiamo pensare che anche attraverso questo limite, cioè l'accoglienza e l'accettazione di questi limiti, insieme con tutta la ricchezza di una cultura, di un modo di vivere e di una lingua, e la ricchezza è anche il limite, perché una cultura non è un'altra, e che però in questo modo, cioè in qualche modo Gesù le ha ovviamente santificate tutte, perché dal punto di vista della cultura, no? Poi dopo evidentemente si devono adeguare alla verità che Dio rivela, ma il fatto che l'uomo crei cultura è un fatto buono e santo, e Gesù ci ha redento così, no? È venuto e quindi anche ci ha aperto la strada, ci ha aperto la strada, perché ciascuno di noi, attraverso il nostro tempo, lo spazio che viviamo, i nostri limiti, le nostre condizioni attuali, possiamo pensare: posso vivere la vita di Gesù Cristo. Poi vi ricordate anche rispetto alla storia quell'incitamento di San José Maria, il punto 99 di È Gesù che passa, in cui dice che lui come sacerdote ha cercato sempre di mettere di fronte a noi, alle persone che parlavano con lui, la nostra responsabilità, la nostra libertà e anche la convinzione che la storia è indeterminata, cioè la possiamo forgiare con le nostre scelte. Ciascuno di noi sa che poi il singolo uomo è limitato anche nei confronti del cambiamento della storia, però qualcosa possiamo fare, e poi unendoci con altre persone di buona volontà, se abbiamo grandi ideali, grandi prospettive, possiamo fare di più, possiamo fare tanto, possiamo fare quello che il Signore ci permetterà di fare, però non vogliamo abdicare a questa passione di vivere il nostro momento storico senza avere nostalgia di altri che peraltro non conosciamo o comunque sono già passati. Questo è il momento che il Signore ci dona da vivere e da illuminare con la nostra fede e da cambiare per quello che possiamo, no? Con tutta la nostra iniziativa, la nostra capacità professionale, la nostra capacità di coinvolgere altri e anche il tempo che abbiamo da amare allo stesso tempo, no? Non solo da cambiare, ma anche da amare, da accettare, da lasciarci, come dire, guidare, e dove esercitare la nostra libertà, la libertà del nostro intelletto che conosce, che giudica, che agisce, che accetta e riprova, insomma. Noi chiediamo quindi a Gesù che ci dia l'amore per il nostro tempo, la passione per viverlo e anche la capacità di utilizzare bene il tempo, a volte utilizzarlo bene per Gesù è andare in fretta da una parte, anche per la Madonna, no? Altre volte è passeggiare con calma nel tempio, senza fretta, ascoltare una persona come se ci fosse solo lei, così come ascolta l'adultera, come ascolta Nicodemo che va da lui di notte, quindi gli dedica anche la notte. Perché temeva di essere visto, quindi si adegua all'interlocutore Gesù. E insomma, ecco, noi che in questi giorni desideriamo tornare a contemplare il nostro Salvatore, il nostro Gesù che è nato anche nello scorrere della sua vita, ecco, a noi fa piacere guardarlo anche così, nel suo rapporto con la storia, con il tempo che gli è stato dato, con il tempo che lui ha saputo utilizzare per incontrare i suoi contemporanei e allo stesso tempo ciascuno di noi. Noi invochiamo la Madonna, la quale ecco, nel caso proprio personale suo è stata una madre che ha visto anche la morte del figlio, quindi ha contemplato tutta la sua vita in questo arco temporale non tanto lungo, ma densissimo, che il Verbo di Dio ha pensato di avere per redimerci. Allora chiediamo a lei che ci aiuti a guardare la vita di Gesù, pensando che è la nostra vita, che è la vita che Gesù ci vuole donare, che è la vita nella quale ci vuole inserire, che è la vita che è il nostro modello. Santa Maria prega per noi.